ammazzami, ammazzami pure. No, io non ti ammazzo da lì. Io non ti tocco nemmeno. Ti chiedo soltanto, come puoi fregare le uniche persone che ti hanno voluto bene? Dove lo trovi il coraggio? Hai perso, povero stronzo.